Il network Ossigeno è un network che nasce a Bologna sostanzialmente un mese e mezzo fa, in una maniera del tutto informale. Molti di questi soggetti che sono centri sociali, quelli storici come il livello 57, il TPO, il Link, ma anche altre realtà che sono nate successivamente, che magari hanno anche fatto autoimpresa oppure si sono costituite in cooperative o che comunque in qualche maniera hanno a che fare col tessuto culturale di questa città, come Pop Lab, Vax 61, Orfeo TV. Insomma, tutte queste realtà sostanzialmente qualche mese e mezzo fa hanno sostanzialmente ragionato su quello che stava succedendo in città, e in città stava sostanzialmente succedendo che per la prima volta un'amministrazione comunale di centrosinistra, dopo la parentesi di Guazzaloca, stava rimettendo in discussione tutta una serie di cose che a Bologna in qualche maniera erano riconosciute come nel tessuto vivo, nella produzione culturale di questa città. Per questo col nome Network Ossigeno si sono in qualche maniera inaugurate, presentate in città tutta una serie di iniziative che culmineranno con la manifestazione dello Street Rave Parade, quella che si fa ogni anno del 25, che quest'anno sarà ancora più importante, a maggior ragione perché sarà, come dire, la tappa finale di un percorso di questo tipo.